Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale per questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine oggi 12 giugno 2025. Ricordo che la trasmissione funziona grazie alla determinazione dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. E ora andiamo all'ascolto di questo album, ovviamente non tutto, alcuni brani del, comunque il terzo album per questa band di Milano. Loro sono La Crisi, e era uscito nel 2011 e si intitola Paura a colazione, La Crisi. Persino quando ti porti la più importante, persino quando fino a tutto liscia. Ciao a tutti, un saluto anche da parte mia per questa puntata di stasera 12 giugno di Zardins Magnetics. Un saluto davvero a chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà in seguito. Allora, in questo breve così intervento mio dirò solo gli argomenti di cui andremo a parlare stasera a Zardins Magnetics. Saranno delle considerazioni a presentazione comunque di questo opuscolo dall'internazionalismo alla solidarietà umanitaria, di cui parleremo subito, e poi nella seconda parte invece tratteremo qualche cosa invece insomma di diverso, che è la questione nuovi OGM, e ci saranno prossimamente delle iniziative così in giro per lo stivale, e così diremo qualcosa anche a proposito di questo. Eccoci qua di nuovo. Quindi, come dicevo, dall'internazionalismo alla solidarietà umanitaria, o di come la solidarietà si è trasformata in un investimento economico neoliberista, in uno strumento di ricatto in Palestina e non solo. Allora, ci è arrivato questo opuscolo insieme allegato, se non sbaglio, a Nunatak. No, è stato ordinato, sì, ordinato. Chiaro. Perché no, io li ho visti insieme. Sì. Siccome io li ho visti insieme, mi ero fatto il film che erano arrivati insieme, ma comunque è curato non si sa da chi, nel senso è stampato in proprio a Genova nel maggio 2025 ed è a cura di Libreria Occupata a Despotos di Genova, Collettivo Hurriya di Pisa e Giovani Palestinesi d'Italia, o meglio raccoglie questi degli interventi fatti in una iniziativa di circa un anno fa, aprile 24. Ecco, perché abbiamo voluto presentare questo interessante opuscolo? Perché comunque lega a delle tematiche che abbiamo trattato già, questa cosa scontata, ma comunque rimando a quello che a me insomma richiama alla mente questo opuscolo, ovvero una puntata di Zardins Magnetics del 24 ottobre in cui ci fu una lettura di varie lettere, era un opuscolo anche quello tradotto in italiano dallo spagnolo, erano le lettere dalla latitanza di Miguel Peralta, se ricordate, che è un militante, insomma un compagno anarchico che si è dato alla macchia, che ha subito con varie condanne quasi 50 anni di reclusione, e poi ultimamente invece avevamo anche trattato queste cose, queste questioni qui che adesso andremo a approfondire, cioè le questioni dell'umanitarismo, ecco, detto in breve, come le iniziative di aiuti umanitari, le varie spedizioni, eccetera, e nella presentazione del numero 75 di Nunatak, cioè il penultimo, questo era il 10 aprile, c'era un articolo in particolare, io adesso non me lo sono andata, non è che mi ricordo nello specifico di cosa abbiamo parlato, ma comunque era questa Sì, report, diciamo, più che reportage, dal Messico, tra i monti Mazzatecchi. In Messico, lotta comunitaria, repressione, strumentalizzazione del femminismo e latitanti, appunto, si ricollegava anche questo, la questione di questi compagni, diciamo, indigeni, che si ribellavano alla colonizzazione, anche non solo quella esplicita, ma anche quella più subdola, che utilizza le organizzazioni non governative, appunto le ONG. Allora, questo opuscolo, che adesso io brevemente faccio solo un quadro, ah no, e c'era in ultimo anche la vicenda di Elias Rodriguez, che è il compagno che ha attaccato due funzionari dell'ambasciata israeliana negli Stati Uniti, e che nella sua, così, nel suo testo che è stato pubblicato, richiamava alla mente il genocidio Maya avvenuto in Guatemala negli anni 60-70, cioè intere popolazioni, appunto, che si ribellavano all'inquadramento dentro l'ordine, così, capitalista, erano state sterminate, insomma, in vari modi, soliti, sporchi, che le chiamano guerre asimmetriche, e mettono una, ecco, un sepolcro imbiancato, no? Sopra le schifezze che combinano. Come dicevo, un opuscolo che è stato realizzato da questi compagni della libreria occupata a Despotos di Genova, è richiedibile all'indirizzo irregolari@inventati.org, qualche copia ne abbiamo a Udine qui in via De Rubeis. Inizia con una citazione abbastanza, così, chiara di un, non so se sia ancora in carica, era stato segretario di Stato degli Stati Uniti, il generale Colin Powell, ai tempi, mi sembra, di George W. Bush. Le ONG sono un moltiplicatore di forza per noi sono un moltiplicatore di forza, una parte estremamente importante della nostra squadra combattente, cioè, ovvero, sono parte integrale delle forze armate, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica degli Stati Uniti, quindi della NATO, insomma, di quello che è quella specie di autonominatasi polizia, forza dell'ordine planetaria, e quindi dove loro arrivano mandano avanti tutto il progetto di sottomissione, ecco, diciamo così, al sistema che qui è in funzione, che è nient'altro che un sistema è contro la vita, contro la società, contro tutto, ecco, procura solo disastri. I punti che io, insomma, penso che siano più così salienti di questi interventi che sono stati raccolti dentro questo opuscolo, sono il fatto che fino agli anni 70 del Novecento, ma si intende che poi dagli anni 70 indietro, tutto il Novecento, fino a quando è apparsa in maniera organizzata nell'epoca più recente, ecco, il movimento rivoluzionario, comunque contro il capitalismo, diciamo così, per riassumere in maniera sintetica, fino a quel momento lì, il sostegno che avveniva nei paesi cosiddetti sviluppati, tra i quali anche l'Italia, ecco, era dentro questo gruppo di stati, il sostegno che le compagne davano alle lotte che avvenivano nel sud del mondo, cosiddetto, insomma, nelle zone dove il capitalismo non ne aveva ancora raggiunto il livello di, diciamo adesso con parolone, di sussunzione reale, cioè non era arrivato ad assorbire ogni momento della vita degli esseri umani, a sussumerli, cioè a sottometterli alla messa a valore, ecco, diciamo così. Quel momento lì, il sostenere le lotte, diventava automaticamente, qui diventava un problema di ordine pubblico, cioè era il famoso slogan portare la guerra in casa. Ecco, se andiamo alla contestazione della guerra in Vietnam, della guerra degli Stati Uniti di distruzione, ecco, del tentativo di distruggere e la resistenza dei vietnamiti alla resistenza al fatto che, appunto, gli Stati Uniti mettessero un regime loro amico in Vietnam, i cosiddetti, appunto, Viet Cong, erano contestati i bombardamenti e l'invio di truppe degli Stati Uniti laggiù, ma questo non era solo una contestazione a parole, significava anche attaccare il nemico in casa, cioè erano anche degli attacchi svolti in varie strutture dello Stato o della difesa, delle forze dell'ordine, forze armate, eccetera, i famosi weathermen, sono stati anche negli Stati Uniti, cosa difficilmente concepibile, ma eppure lo vediamo anche questi giorni con le rivolte, non diciamo diffuse, ma comunque delle piccoli fuochi, ecco, di rivolta che stanno avvenendo negli Stati Uniti d'America, a Los Angeles in particolare, contro le retate delle strutture così governative che si occupano del razzismo di Stato. Ecco, a un certo punto, con una svolta verso il sistema verso il neoliberismo, diciamo così, alla svolta degli anni Ottanta con Reagan, la Thatcher e Papa Wojtyla e compagnia, quando cominciava, cioè quando la propaganda batteva sul fatto che non c'era alternativa al capitalismo, era finita tutto quello che era stato fatto di lotte. A quel punto lì cominciano ad avviarsi dei processi, tra i quali vedremo l'intervento che seguirà anche, che riguardano anche l'occupazione israeliana nei territori palestinesi, e quindi si trasforma questa solidarietà, che era appunto uno strumento della classe, uno strumento degli oppressi, uno strumento dei proletari, eccetera, si trasforma in qualcos'altro, sono appunto gli aiuti umanitari, sono le ONG, sono questa entità artificiale, la cosiddetta popolazione civile, scollegata, va astratta, va isolata dal contesto reale, dove ci sono anche delle componenti in armi che appunto lottano con le armi contro l'oppressore, e una serie di altri elementi che sono che comunque riguardano questo paradigma, tra il quale appunto questo ricatto economico, cioè non si può uscire dalla carreggiata che viene imposta, ecco, diciamo così, una carreggiata, una strada imposta dagli stati, dagli apparati, varie strutture governative degli stati capitalisti e dai padroni e dalle multinazionali, eccetera, dal complesso energetico, militare, economico, finanziario, altrimenti cosa succede? Non c'è più agibilità, cioè le persone che lavorano dentro l'ONG, che non sono proprio pochi, e non occupano posti proprio così all'ultimo posto, ecco, sono ruoli importanti dentro queste realtà di distruzione, come può essere, non so, adesso la Cisgiordania, o addirittura come era stata Gaza fino al 7 ottobre, come bene o male lo ridiventerà. E basta, cioè, insomma, è questa la questione. C'è questa idea di imporre lo status quo, la miseria, come qualcosa di sulle quali non si può fare intervenire, e va resa sostenibile, va resa accettabile in tutti i modi, con queste, insomma, varie percorsi, varie metodi, varie, insomma, imposizioni che vengono fatte. E in tutto questo, chi osa individuare, chiedersi o individuare addirittura le cause reali dell'oppressione, dello stato di miseria, dello stato di disperazione che regna, viene, insomma, appunto, rompe un tabù che non si può rompere, di cui bisogna tacere, di cui appunto bisogna semmai mandare avanti quello che c'è, ecco. Sì, ciao anche da parte mia. Allora, per così come approfondimento rispetto a questo opuscolo, dall'internazionalismo alla solidarietà umanitaria, Ritorniamo a parlare più precisamente di Palestina. Intanto una cosa va detta subito, che in Palestina la rinuncia al diritto al ritorno è una condizione necessaria per accedere agli aiuti internazionali. Quindi quello lì è una clausola, l'avevamo già detto in altre situazioni, ma va bene, è opportuno ribadirla, che il discorso del diritto al ritorno è una roba base e che invece non si vuole affrontare, insomma non si vuole, si vuole mettere un po' così in sordina, no? Da parte di delle organizzazioni umanitarie, anche di quelle dal basso, spesso e volentieri. Allora, in questo opuscolo c'è questo contributo di una compagna dei giovani palestinesi d'Italia che analizza un po' tutta la situazione a partire dagli accordi di Oslo del 1993. Cioè lei dice, diciamo che con il fallimento del processo di pace, ma comunque con questo accordo di Oslo, viene messo fine a un certo tipo di attivismo politico, che era quello della prima intifada, che a sua volta appunto proveniva dai movimenti degli anni 60 e 70 contro il colonialismo, come è stato detto prima, quindi le mobilitazioni contro il Vietnam, sì, contro la guerra nel Vietnam, la lotta degli afroamericani negli Stati Uniti, la lotta anticoloniale algerina in Francia, eccetera. Tutte esperienze che avevano ispirato, diciamo, la pratica politica dei combattenti in Palestina. Con il fallimento di Oslo abbiamo la successiva creazione dell'autorità nazionale palestinese e quindi in Palestina si viene a creare, cioè le strutture, diciamo, la comunità internazionale, chiamiamola così, statale internazionale, viene a creare un sistema burocratico nuovo che si afferma come l'unico interlocutore legittimo per l'Occidente e per le sue istituzioni. Quindi l'autorità nazionale palestinese diventa l'attore esclusivo, quello che può dialogare con le istituzioni europee e quello che riceve formalmente i fondi, in maniera ovviamente col contagocce, condizionata, arbitraria, adesso te li do, poi te li tolgo, però quindi viene a crearsi anche questo ceto politico, no? di corrotto, ma in maniera scientifica, insomma, questa cosa viene fatta, non è insomma, è una roba fatta costruita chiaramente a tavolino. Il risultato indiretto, ci dice la compagna, è ad esempio la progressiva diffusione in tutto il territorio palestinese di attività depoliticizzate, come ad esempio quelle che riguardano la questione di genere all'interno della società palestinese o che puntano a promuovere le tradizioni culturali locali, mentre la messa in discussione del sistema coloniale finisce nello sfondo quando non viene addirittura archiviata. Quindi c'è questa depoliticizzazione del discorso pubblico intorno alla Palestina. E lei ci fa anche l'esempio delle attività legate al cucito tradizionale palestinese. E, chiaramente, poi lei lo dice, non è che si vuole con questo diciamo fare cioè spazzare via tutto, cioè dire che sostenere anche questo tipo di attività è una cosa totalmente negativa, però bisogna tener conto di quello che si sta facendo mentre ci si occupa di appunto sostenere attività artigianali attraverso progetti di cooperazione, quando di continuo c'è la distruzione totale dell'esistenza di un popolo, no? E questa distruzione totale dell'esistenza di un popolo è portata avanti in maniera appunto scientifica, storicamente affermata, e non viene messa in discussione dall'Occidente. Negli ultimi 30 anni, ci dice questa compagna dei giovani palestinesi d'Italia, si parlava di Palestina sempre con un atteggiamento assistenzialista. I palestinesi hanno bisogno d'aiuto, sono una popolazione che ha bisogno di essere salvata, le loro donne hanno bisogno di essere salvate dal patriarcato palestinese e da una cultura primitiva, rozza, e che per migliorare può solo assumere come riferimento quella occidentale. E facendo poi riferimento specifico alla cooperazione italiana, si può senz'altro dire che questa cooperazione ha finanziato progetti che spesso e volentieri non prevedevano una previa consultazione della popolazione locale in relazione ai bisogni reali. Ad esempio, lei ci fa questo esempio: se la cooperazione italiana finanzia la costruzione di una scuola, ma l'esercito, il giorno dopo l'esercito israeliano, il giorno dopo la distrugge e l'anno dopo viene ricostruita, Verrebbe da chiedersi la ragione d'essere di una cooperazione i cui risultati tangibili sono continuamente messi in scacco dall'occupazione. E al di là di questo, ci dice, per noi palestinesi è importante interrogarsi sulla postura neocoloniale del Salvatore Bianco, che di fatto pensa di poter entrare in Palestina e portare progresso e civiltà in una società che viene raccontata come primitiva. Allora, questo non vuol dire che se si fa parte di organizzazioni italiane o se si è bianchi non si possa intervenire in Palestina, però per farlo è necessario decolonizzare lo sguardo e quindi capire in primis quali sono le richieste che vengono dai palestinesi e contemporaneamente cercare anche di eliminare un po' quel pregiudizio che si ha nei confronti dei popoli che sono al di fuori dei nostri confini, pregiudizio che deriva dall'islamofobia che abbiamo interiorizzato qua in Europa, sicuramente dall'11 settembre e forse anche da prima. Quindi si tratta di eliminare l'abitudine di vedere i palestinesi come un popolo vittima e contemporaneamente un branco di terroristi. Poi ci dice insomma il discorso della sovradeterminazione, quindi il fatto di non di pretendere di sapere quello che è il metodo, la modalità di lotta, di liberazione, invece di stare a di accettare quello che il popolo palestinese sceglie. E ad esempio si dice, e poi magari ci ricolleghiamo rispetto a questo anche a una recente iniziativa che si è svolta qui a Udine, in questi mesi in tutta Italia come nel resto dell'Europa, l'intervento è di un anno fa ma comunque vale ancora, durante le iniziative pubbliche si è discusso del futuro palestinese di Palestina senza mai invitare i palestinesi, oppure quando li si invita, ad esempio in dibattiti mainstream o in cui c'è un pubblico già preparato al discorso su due popoli, due stati, e in cui non si menziona mai la questione del colonialismo di insediamento o la questione del diritto al ritorno, appunto. Lo si fa dando la parola al cosiddetto buon colonizzato, ovvero al palestinese di turno che asseconda la visione occidentale. D'altronde ci sono ci sono vari esempi di movimenti e organizzazioni dove sono presenti anche palestinesi che portano avanti il discorso della normalizzazione. Ad esempio un'organizzazione di questo tipo si trova anche in Palestina ed è l'organizzazione Standing Together. Questa organizzazione è costituita da palestinesi e israeliani insieme e non mette mai in discussione la questione del privilegio del sistema coloniale e dei rapporti di potere che derivano da questo. Di contro, le organizzazioni palestinesi che non aderiscono a questo paradigma vengono accusate di essere organizzazioni terroristiche. Ad esempio, ci sono dal 2001 sei ONG palestinesi sono state accusate di essere organizzazioni terroristiche. Tra cui c'è una cooperativa di agricoltori, un'altra realtà che si occupa dei diritti dei minori e cioè dei minori che vengono detenuti. E tutte queste organizzazioni, queste qua che sono accusate di terrorismo, sono nate proprio nel clima post Oslo, quindi per tentare di rompere questo monopolio dell'autorità nazionale palestinese e hanno quindi cercato di attivarsi insomma politicamente all'interno del territorio. Ad esempio un'altra cosa che io non avevo messo a fuoco, che rispetto ai finanziamenti dell'Unione Europea per i progetti per la Palestina, l'Unione Europea ha imposto il rispetto di una clausola, conditional funding, e questa clausola viene applicata a tutte le organizzazioni palestinesi per l'ottenimento dei finanziamenti. Questa clausola ha a che fare con l'orientamento politico dei membri delle organizzazioni stesse. In pratica, quando una organizzazione palestinese richiede un finanziamento per sviluppare progetti in Palestina, deve comunicare all'Unione Europea che i suoi membri non facciano parte di organizzazioni politiche o partiti considerati terroristi. Ma tutti i partiti palestinesi che non sono l'autorità nazionale palestinese sono considerati organizzazioni terroristiche da parte di Israele e quindi anche da parte dell'Unione Europea. E nominiamo, a parte Hamas, ma nominiamo anche il Fronte Popolare di Liberazione e insomma tutte queste realtà sono considerate realtà terroristiche. Adesso mi viene in mente ad esempio la Adamer, che che è l'associazione che sostiene i diritti dei prigionieri politici palestinesi. Noi abbiamo invitato e ospitato Suad Jenem sia a Udine che a Trieste, che portava appunto che fa parte di questa associazione e che portava raccontava le vicissitudini dentro le carceri israeliane da parte dei prigionieri palestinesi. Tutte queste associazioni sono considerate terroristiche, quindi non ricevono finanziamenti dall'Unione Europea. Quindi non esiste, cioè le organizzazioni per la liberazione della Palestina sono ritenute terroristiche. Allora, inoltre c'è anche un altro aspetto, che sia in Cisgiordania che a Gaza le ONG, anche quelle riconosciute, non hanno nessun tipo di possibilità di contrattazione con il sistema coloniale. Quando Israele dice alle ONG di andare via, le ONG vanno via, quelle che rimangono alle condizioni di Israele o rischiano di essere prese di mira, cioè di essere ammazzati gli operatori, e come dimostra l'episodio accaduto il 1 aprile 2024. Praticamente, se vi ricordate, 6 operatori umanitari e un autista di World Central Kitchen, durante uno spostamento verso la parte sud della striscia, praticamente questo convoglio è stato attaccato dai missili israeliani, sono stati ammazzati. Subito, immediatamente, questa ONG, senza dire Israele ha ammazzato i nostri componenti, ha preso il largo, insomma, e se n'è andata. Quindi fra ONG e Israele c'è un rapporto di potere sempre sbilanciato dalla parte del sistema coloniale, e questo ovviamente è inevitabile. Poi la compagna fa anche un interessante parallelismo tra gli occidentali che cercano di andare in Israele, no? E cercano di andare in Israele, cioè in Palestina, e quindi devono andare dentro lo Stato di Israele per testimoniare, in qualche maniera per solidarizzare, no? Con la resistenza palestinese, e vengono spesso e volentieri bloccati alle frontiere e considerati non desiderati, quindi vengono rinviati, insomma non possono varcare le frontiere. Questo è un fatto, però lei dice non si può assolutamente paragonare questa situazione a quella degli autoctoni, dei nativi palestinesi, ai quali è impossibile vivere e transitare liberamente nel proprio territorio. Cioè bisogna capire che anche se si è antisionisti ma occidentali, si vive in un sistema di privilegio, e questa roba qua, quindi tante volte magari anche le azioni puramente dimostrative magari lasciano un po' il tempo che trovano, no? Ad esempio lei ci dice poi: noi come gruppo palestinese, appunto dei giovani palestinesi in Italia, siamo sempre stati messi un po' da parte da questo tipo di mondo della solidarietà alla Palestina in Italia, perché considerati estremisti, troppo radicali della critica alla solidarietà. Lei dice, insomma, invece noi rivendichiamo questo diritto alla rabbia come espressione di una forte ingiustizia e di un'ingiustizia viscerale che attraversa le nostre vite, le nostre famiglie, la nostra comunità politica ormai da 4 o 5 generazioni. Inoltre, adesso io aggiungo che c'è anche la tendenza da parte delle organizzazioni di solidarietà a fare un paragone, cioè a dire, qui da noi abbiamo i diritti sono garantiti, no? Cioè a metterla sul piano dei diritti, diciamo. Perciò, e non di una dei diritti all'interno di una società statale e capitalista. Certi diritti ci sono. Allora, adesso arrivo a questa roba che dicevo, di questa iniziativa che è stata fatta a Udine. Ad esempio l'obiezione di coscienza al servizio militare, no? Allora, da noi in Italia il servizio militare è sospeso e non è abolito, è sospeso, quindi può essere reintrodotto in qualsiasi momento, e tra l'altro con i venti di guerra, il riarmo, il 5% del PIL, l'industria più forte che è quella degli armamenti e tutto quello, insomma, e la militarizzazione sempre più spinta della società, è molto probabile che ci siano tentativi di reintrodurre il servizio militare, e comunque anche in Europa, in tantissimi paesi lo hanno reintrodotto. Però si dice, boh, ma l'obiezione qui, l'obiezione di coscienza è cioè qui non c'è più, c'è solamente il servizio civile se si vuol fare, ma non è obbligatorio. Però qui l'obiezione di coscienza era un diritto garantito, in altri paesi come Israele non è garantito. E quindi si fa questo tipo di paragone. Allora, qualcuno, insomma, siamo andati ad ascoltare un refusnik, un giovane ragazzo, Yuval si chiama, di 22 anni, israeliano, che ha rifiutato di andare a fare il servizio militare, per questo è stato in carcere, che è stato invitato da tutta una serie di organizzazioni, insomma, del terzo settore e di solidarietà, solidali con la Palestina, Donna in Nero, il Comitato per la Palestina, appunto, e varie altre realtà. Adesso ce n'erano tante, adesso non me le ricordo tutte. Comunque, in questo incontro è stato organizzato appunto per dar voce, un'importante voce, a questa persona che ha rifiutato di andare ad ammazzare sia in Cisgiordania che a Gaza. Però l'impostazione, diciamo, della serata è stata questa, cosa che è assolutamente, cioè non è stato fatto cenno, ad esempio, alla situazione di repressione che stiamo vivendo, alla guerra in terra che stiamo vivendo anche qua in Occidente, e al fatto che il modello Israele si sta affermando, no? Anche in Italia, per non andare chissà dove, anche in Italia, insomma. E ad esempio un altro, allora io dico le cose interessanti, molto interessanti, che questo Yuval ha detto, un ragazzo così giovane. Lui ha detto in maniera molto schietta che lui è nato in un paese del sud di Israele, un paese che lui dopo ha capito, quando è diventato adulto, che questo paese qua era un villaggio palestinese distrutto, e dove i coloni hanno fondato un altro paese, e suo nonno era tra i fondatori, tra i distruttori e i fondatori di questo paese negli anni 60, non 200 anni fa, no? Negli anni 60. Lui è la terza generazione praticamente di abitanti di questo paese, e quindi lui ha detto: per me era normale vedere le parate militari, vedere la gente armata che girava con i mitra contro i palestinesi, cioè era una roba normale, perché ci hanno tirato su, cioè l'ideologia sionista e militarista è una roba fort potente, e per me era naturale. Quindi quando io speravo di fare il servizio militare, cioè non ho mai pensato no, non farò il servizio militare, fino a che c'è stato uno scatto di coscienza. E poi ha detto appunto che a 16 anni e mezzo gli è arrivata la cartolina di precetto, perché ha detto che nelle scuole arrivano queste cartoline di precetto, in modo che gli studenti, i più anche promettenti, magari bravi, eccetera, abbiano il tempo per scegliere, no? Per capire dove vogliono andare. E siccome lui era un bravo studente, gli proponevano di andare negli aerei, quindi di guidare i bombardieri praticamente, di prestare servizio nell'aeronautica. Invece lui no, preferiva, cioè lui ha detto che già era a disagio, lì ha capito che non, qualcosa non gli tornava, no? Però nello stesso tempo lui ha detto: ho cominciato a definirmi anarchico, però nello stesso tempo pensavo, potrei andare a fare il paramedico, perché magari, ecco, scrivo nelle mie preferenze che non voglio andare in Cisgiordania, che non voglio andare a Gaza e che voglio fare il paramedico. Poi si è reso conto che, sì, ma cioè, cosa vuol dire fare il paramedico con l'IDF? Sì, è uguale, cioè, lì ha avuto, quindi uno scatto di coscienza che lo ha portato a scegliere di obiettare, di fare l'obiettore totale, e quindi ha fatto 70 giorni di carcere. E poi, però poi ha detto: adesso mi hanno esonerato, cioè lui insomma è consapevole, questo refusnik è consapevole del suo stato di privilegio, cioè lui può girare, lui ritorna a casa sua quando ha finito il giro delle conferenze, perché lui è stato esonerato, quindi non è più perseguitato. Ci sono anche dei refusnik che invece rifiutano proprio anche in maniera, non solo il servizio militare, ma magari anche altre cose, e quindi magari hanno altre conseguenze, insomma non è così, non è uguale per tutti, ma insomma è venuta fuori questa roba qua. Per lasciare ancora un po' di spazio alla musica, dico solo questo e poi così affrontiamo la seconda parte degli argomenti. Un paragone che a me ha colpito è stato questo. Yuval ha detto: il giorno in cui Israele festeggia la fondazione dello Stato, che per i palestinesi invece corrisponde alla catastrofe, alla Nakba. Ci sono grandi parate militari e tutti i paesi hanno questi grandi mercati anche di armi, e per noi è normale, no? E la persona che traduceva l'intervento ha detto: beh sì, pensate, cioè qui da noi fanno i mercati contadini, no? I mercati di Coldiretti, dopo ne parleremo, e da loro invece fanno i mercati delle armi. E questa cosa qua a me ha fatto sobbalzare sulla sedia, perché in realtà i mercati delle armi da noi li fanno. Ricordiamo la calata degli Alpini, ma per dire, perché era un mercato in grande, ma li fanno costantemente, e comunque da noi anche i mercati di Coldiretti sono mercati delle armi. Intanto volevo ricordare che prima, tra gli interventi, abbiamo sentito i Tragedy dal loro primo album uscito nel 2000, omonimo ovviamente alla band, e ora invece stiamo ascoltando i Praying Hands, che è una band canadese ex Ballast. Comunque rimaniamo all'ascolto dei Praying Hands. Sì, e adesso mettiamo prima di tutto un pezzo di Piero Ciampi, Andare, camminare, lavorare, che è una che ci è stata richiesta da un nostro assiduo ascoltatore. Ciao Simo! Ciao Simo! Ciao! Ciao! Anzi, volevo specificare che è del 1975, questo brano. E vai! Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite. Niente paura, di qua c'è la discesa. Andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe. Cos'è questo fuoco? Pompieri, pompieri, voi che siete seri, puntuali, spengete questi incendi nei conventi, nelle anime, nelle banche. Andare, camminare, lavorare. Queste cassaforti, che infernale invenzione. Viva la ricchezza mobile. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare, lavorare, lavorare. Nutriamo il lavoro, ale! Gli agnelli a pascolare con le capre, fra i nitriti dei cavalli, questi rumorosi, vigilati tutti, da truppe di pastori, andare, camminare, lavorare, niente paura, azzurri, azzurri, attaccare, attaccare! Attaccatevi a calci nel sedere, calciate. La domenica tutti sul cordoio a pedalare. Lavorare, pedalare, lavorare. Con i contanti, nell'osteria, con i contanti, con tanti, tanti, tanti, tanti auguri agli sposi. Andare, camminare, lavorare. La penisola in automobile, tutti in automobile al matrimonio, ale, la penisola al volante. Questa bella penisola è diventata un volante, andare, camminare, lavorare. Ecco, notevole Piero Ciampi, e noi voltiamo pagina. Prima di voltare pagina, un attimo prima di voltarla, io devo dare un appuntamento che sarà lunedì 16 giugno a Milano al Consolato francese. È un presidio di solidarietà per Georges Abdallah, 40 anni di carcere, una vita di lotta. È uno scendere in piazza in vista dell'udienza decisiva che ci sarà insomma alla corte francese il prossimo 19 giugno, che sarebbe fra una settimana, se non sbaglio. Giovedì prossimo. Cioè, ecco, altro appuntamento invece, 20-21-22 giugno, un po' più avanti. Storie, resistenze contadine, tre giorni di confronto nel cinquecentenario della guerra dei contadini 1525-2025. Dove si terrà questo interessante confronto? In Val Pellice, Parco Flissia, Villar Pellice, Torino, nelle montagne. Allora, ci sono, cioè il programma lo trovate, cioè il programma, il si può dire, gli appuntamenti li trovate su questa piattaforma delle cose che succedono a Torino e dintorni, che si chiama Gancio Cisti. E, insomma, per avvicinarci al prossimo argomento, che sarà appunto, come detto, la questione dei nuovi, dei TEA, nuovi OGM, c'è in particolare il pomeriggio del sabato 21, tavoli di lavoro sulla contadinanza di ieri e di oggi, accesso e rapporto alla terra, commons, proprietà, relazione territorio. Primo tavolo. Secondo tavolo, il principio di misura contadina, sistemi e modalità di produzione e distribuzione. Terzo tavolo, agroecologia, come coltivi e come ti relazioni. Chi fa la contadinanza oggi? Ci saranno Atelier Paysan, Genuino Clandestino, Associazione Rurale Italiana, Collettivo Terra e Libertà, Roberto Schellino e molte altre e molti altri. Va bene. Ultima cosa, sempre più vicini alla questione OGM, un importante corteo Stop OGM e per l'agroecologia, no TEA, NGT, sì, no NGT, no NBT, dove sarà Parma, stazione FS, ore 15:30, quando il 14 giugno, che è sabato. Ritrovo appunto, come ho detto, alle 15:30 stazione FS di Parma, e la fine, sì, un corteo abbastanza lungo, ascoltavo, concluderà in Parco Primo Maggio, festa con spettacolo teatrale, letture, performance, musica. Dove trovate tutte le informazioni è il blog, chiamiamolo Cambiare il Campo, tutto attaccato, cambiareilcampo.org. ecco. E volevo ricordarvi che stiamo ascoltando questa band che si chiamano Liberty, nome particolare per una band americana che comunque è esistita nei primi anni 80. Sì, continuiamo allora con questo discorso appena accennato, beh, da chi mi ha preceduto, introdotto ed è appena accennato da me alla fine del mio. Allora, io ho detto prima, anche i mercati di call diretti sono mercati di armi, e questo perché? Perché call diretti ha una grandissima responsabilità che risale al 2020, quindi non è una responsabilità di ultima, insomma ha già un po' di anni, e cioè il fatto di aver accettato queste i nuovi OGM, le cosiddette TEA, tecniche di evoluzione assistita, quindi con una, diciamo così, parafrasi gentile. Allora, nel 2020 nasce questo protocollo Camici e Trattori, che già insomma già il nome la dice lunga, quindi laboratori e coltivatori. Questo protocollo viene stipulato da Coldiretti e dalla Società Italiana di Genetica Agraria per l'applicazione delle biotecnologie in ambito agricolo. Questa mossa qua, nel giro di pochi anni, ha portato anche la CIA e la Confagricoltura a schierarsi a favore della sperimentazione in pieno campo dei nuovi OGM, patronati di categoria che erano riusciti in precedenza a tenere ferma la propria avversione nei confronti degli organismi geneticamente modificati, ma si trattava della transgenesi, mentre nel caso dei nuovi OGM si tratta di cisgenesi. Dopo entriamo in merito, ma queste tecniche biotecnologiche, insomma queste biotecnologie, vengono portate avanti proprio per far prendere piede, per potenziare un modello di agricoltura che è quello proprio dell'agroindustria e che va di pari passo con la digitalizzazione dell'agricoltura. Allora, nel 2020 va detto anche questo, che nel 2023 lo Stato italiano, avvalendosi della possibilità di ogni Stato membro dell'Unione di agire autonomamente, ha alleggerito, grazie al decreto siccità, quando c'erano state le alluvioni in Emilia-Romagna, praticamente ha alleggerito la normativa europea sulla sperimentazione in pieno campo dei nuovi OGM. Perciò di fatto, insomma, stanno tentando di sperimentare, per fortuna però esiste il luddismo contadino, ma stanno tentando di sperimentare queste nuove tecnologie anche in pieno campo. Allora, prendo due cose da un volantino interessante su che cosa sono queste TEA. Vai. No, volevo solo dire che richiamare che c'è una puntata di Zernis Magnetics. Ah, sì, certo. Nella quale abbiamo già ospitato un intervento molto approfondito. Mio compagno. Sì. Sì, certo. Ma ribadiamo solo queste due cose. Sì, del coordinamento no OGM, ribadiamo queste due cose perché mentre in Valpellice fanno questa roba queste iniziative interessanti sulle rivolte contadine, mentre c'è il corteo a Parma contro i nuovi OGM e in generale l'agroindustria e per appunto l'autodeterminazione, diciamo, per la contadinanza ecologica ma e non di sfruttamento vivente, a Udine da domani a domenica c'è praticamente un'invasione paragonabile, io la paragono veramente alla due giorni degli alpini di due anni fa, perché se voi girate, chi è di Udine gira per Udine, prende paura per tutte le sovrastrutture, gli stand, le robe miliardarie che hanno messo in piedi, per i vari stand di tutte le armi, tutte, dai carabinieri all'aeronautica, alla Polizia di Stato, all'esercito, all'Enel, alle Poste Italiane e avanti, insomma. Le banche, insomma, una roba degli sponsor, una roba mostruosa. E c'è questo villaggio di mi viene da dire Confindustria, non è la Confindustria, della Coldiretti, ma insomma villaggio Coldiretti, una mossa propagandistica pesante, tra l'altro annunciata abbastanza, cioè a noi è sfuggita, forse è sfuggita a noi, ma comunque. E questi qua insomma ti fanno il mercato contadino, appunto ti fanno il tendone della generazione agricoltori, dove parleranno delle innovazioni, poi vi dirò quali sono le innovazioni che porta avanti, che portano avanti. E allora, due parole, che cosa sono queste tecniche di evoluzione assistita? Vi leggo da questo volantino che ha fatto molto bene. Innanzitutto ci dicono gli esperti, che ovviamente sono i ricercatori universitari, non si tratterebbe più di transgenico, vegetali cioè a cui è stato introdotto in laboratorio uno o più geni provenienti da altre specie, persino animali, ma di organismi cisgenici, giacché hanno subito modificazioni tramite manipolazione del proprio DNA. A differenza dei vecchi OGM, che si collocavano nel panorama cibernetico della manipolazione hardcore del vivente, e non a caso erano stati ribattezzati cibo Frankenstein, le TEA, all'estero chiamate più schiettamente nuove tecnologie genomiche, sono spacciate come naturali, organiche, del tutto simili ai vegetali normali. E qui sta gran parte dell'inghippo. Genetisti, biologi molecolari, tecnici di laboratorio, quelli che ormai da tempo hanno ottenuto il controllo delle sementi, industrializzandole e sottraendole alle mani dei contadini, raccontano la menzogna per cui queste tipologie vegetali sarebbero create con tecnologie che si limitano ad aiutare, assistere e velocizzare il loro percorso di evoluzione, di cui il nome, che le specie compierebbero naturalmente per adattarsi alle nuove condizioni climatiche, un semplice aiuto, quindi è nulla più. E appunto i compagni di, della nave dei folli considerano le TEA come, dicono che fungono da psicofarmaco agricolo, e perché praticamente sono chimere cisgeniche e si inseriscono in questo quadro spettacolare dell'odierna ecotecnologia, in cui stati e multinazionali stendono una patina di verde sulla superficie della mega macchina industriale. Questo si vede molto, in maniera molto esplicita, insomma, se fate un giro per Udine in questi giorni, ma non solo a Udine, ma siccome qua abbiamo la calata degli ultracorpi, vale la pena. Però volevo dirvi, dalle parole stesse di Coldiretti. E Coldiretti qualche mese fa ha fatto un articolo sul loro sito, lo trovate, dove proprio parlano di agribusiness e di digitalizzazione dell'agricoltura, di droni e di nuove professioni. Dicono che ci vorranno almeno 5.000 nuove posizioni lavorative per accompagnare la digitalizzazione del settore agricolo, e parlano anche di TEA, sì, in tutta Italia, non solo in Friuli. Ma e allora dicono che loro hanno creato, insieme a società di educational, BF Educational, hanno creato un percorso di formazione rivolto a giovani imprenditori, agricoltori, tecnici e collaboratori tra i 18 e i 40 anni, quindi giovani fino a un certo punto, tra cui i ragazzi di Coldiretti Giovani Impresa. E questi corsi di formazione, appunto, includono lezioni teoriche e pratiche su tecnologie avanzate come droni e sensori del suolo, gestione strategica dell'irrigazione e di zootecnia di precisione, applicazione dei sistemi di supporto decisionale. Praticamente parlano già di agricoltura 5.0, nemmeno 4.0, ma 5.0, e ne parlano come di una svolta epocale. Secondo un'analisi di Coldiretti basata sui dati Smart Agri-Food, nel 2024 il fatturato del settore crescerà del 19%. Oggi più di 1 milione di ettari di terreni agricoli in Italia è già gestito con tecnologie avanzate, e loro parlano di una rivoluzione, hanno il coraggio di parlare di una rivoluzione, che però affinché non si fermi ha necessità di forza lavoro all'altezza, e cioè che sappiano forza lavoro che sappia gestire droni, robot, sensori e satelliti. Allora, tra le nuove figure professionali emergenti ci sono il data analyst agricolo, responsabile dell'analisi dei dati raccolti da sensori e macchine agricole per ottimizzare le operazioni, migliorare la resa delle colture e ridurre gli sprechi. Lo specialista in agricoltura di precisione utilizza tecnologie come GPS, immagini satellitari e sensori per monitorare e gestire le colture in modo preciso. riducendo l'uso di risorse naturali. Quindi c'è sempre questa mistificazione pseudo ecologista per cui si ridurrebbe, diciamo, l'impatto naturale sulla natura. Poi si parla di sfruttare l'intelligenza artificiale, di prevedere le condizioni meteorologiche e migliorare la resa delle colture. E poi altri ruoli chiavi includono lo specialista in Internet delle cose, che gestisce dispositivi connessi per monitorare vari aspetti delle operazioni agricole, e l'esperto in blockchain per l'agricoltura. Ecco, e poi parlano dei droni. Il drone è un valido aiuto. Il lavoro del dronista è fondamentale per operazioni quali la mappatura dei terreni e la concimazione aerea. Sì, la concimazione aerea, che così anche, e ho anche magari i trattamenti aerei, così la popolazione che abita nei luoghi è cagata, scusate il francesismo, e col contadino attraverso il contadino tecnologizzato attraverso il drone se la sfanga. Poi il consulente per le energie rinnovabili, che cosa va a fare questo consulente per le energie rinnovabili? Va a incrementare l'agrivoltaico, che è una piaga sempre più diffusa anche qua da noi, anche in vicinissimo alle dappertutto, ma qui da noi. Io non sono un'esperta di agricoltura, anche se faccio l'orto, però il Friuli è un territorio abbastanza piccolo e questi tipo di impianti hanno una ricaduta, un impatto anche sui centri abitati molto pesante. E comunque non solo l'agrivoltaico, ma anche la produzione di biogas. E poi arriviamo alle TEA, che offrono nuove prospettive, dice, e ci dicono loro, col Diretti, permettendo di sviluppare varietà vegetali più resistenti ai cambiamenti climatici e con minore esigenze di risorse. Ecco, invece ricordiamo, poi avremo modo, insomma, di approfondire questi argomenti, perché organizzeremo delle iniziative anche noi, ma ricordiamo che invece c'è una omogeneizzazione, diciamo, queste tecniche producono non diversità, non biodiversità, ma omogeneizzazione delle specie. Perciò, tra l'altro, queste specie sono anche più vulnerabili, più attaccabili, perché dove non c'è diversità, se c'è un agente nemico, diciamo, quella gente lì distrugge tutto, non ha nemici naturali, e quindi in realtà i trattamenti saranno molto più intensivi. Insomma, non è vero che riducono i trattamenti, e comunque il solito discorso di affrontare la questione non alla radice, cioè i cambiamenti climatici, non le ragioni per cui ci sono i cambiamenti climatici e quindi un cambiamento di campo, un cambiamento di rotta, ma trovare delle tecnologie distruttive e invasive e che distruggono veramente i principi del vivente, per arginare e andare avanti come cacciatorpediniere verso la catastrofe generale. Ma queste cose, però, di queste cose si parla abbastanza poco fuori da, diciamo, dall'ambiente più militante, ma perché le persone non conoscono. E invece è importante parlare in maniera diffusa di queste questioni qua, proprio parlare alle persone che in realtà che amano la terra, anche che anche la coltivano, perché spesso anche gli stessi agricoltori non sono consapevoli fino in fondo, soprattutto i piccoli agricoltori, di tutte le conseguenze, insomma, che questa agrobusiness porta avanti. Niente, quindi così opponiamoci alle TEA, opponiamoci ai vecchi e ai nuovi OGM, e opponiamoci anche a questa digitalizzazione dell'agricoltura. Bene, siamo ormai al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che... Sì, scusate l'intervento a gamba tesa, ma mi sono dimenticata di dire una cosa che ci tengo di dire. E domenica 15 giugno ci sarà un presidio al carcere, fuori dal carcere di Terni, e un presidio contro il decreto sicurezza e, per sabotare il decreto sicurezza perseverando nelle nostre pratiche di sostegno e solidarietà verso i prigionieri che sono politici, che sono tutti prigionieri, ma anche i prigionieri rivoluzionari comunisti che sono all'interno di questo carcere di massima sicurezza, alcuni anche da oltre 40 anni, a fianco del compagno anarchico Juan Soroque, a fianco del combattente palestinese Anan Yaesh, e anche con tenendo in, a mente e sostenendo la lotta di Paolo Todde, anarchico sardo che è in sciopero della fame ad oltranza dall'8 maggio contro le condizioni di detenzione nel carcere di Uta in Sardegna. E naturalmente Alfredo Cospito, la solidarietà attraverso questa azione va anche al compagno Alfredo Cospito, rinchiuso nell'infame regime di 41 bis. Questo presidio sarà domenica 15 giugno alle ore 16 a Terni, strada delle Campore 32, davanti all'ingresso del carcere. E noi, insomma, ci siamo, anche se non con il corpo, ma con il cuore, saremo là. Bene, allora scusate se prima ero partito con i saluti, che appunto questa trasmissione Zardins Magnetics è giunta al termine. Siamo in diretta radiofonica qui da Udine, oggi 12 giugno 2025, quindi ogni giovedì dalle ore 20 alle 21.30. Ricordo che il programma viene così curato dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e anche se volete scriverci, il nostro contatto tramite posta elettronica è liberetutti@autistica.org, oppure potete scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste 34121. Ricordo che questo programma, ma anche quello delle volte scorse, potete riascoltarlo nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Salutiamo tutti, all'appuntamento al prossimo giovedì, e salutiamo anche chi ci ascolta domani venerdì in replica su Radio Eustachio alle ore 11 e su Radiazione dalle 17, e queste due sono delle web radio. Ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con questi Nausea, ex band di New York, punk crust degli anni 90, primi anni 90, che ricordo che tutti i brani sono stati rimasterizzati e si trovano in rete tutti gli album e i 7 pollici. Va bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì.